Brevissima parola di introduzione da parte mia per esprimere la soddisfazione per questo momento che stiamo vivendo, la soddisfazione dei diplomati, la soddisfazione dei docenti e la soddisfazione dell'istituto per il raggiungimento di questo che è per noi un notevole traguardo. La prima assegnazione di diplomi da parte dell'istituto. Dunque pregherò il direttore Don Zani, il direttore del corso, di dare una relazione più precisa del curriculum e del contenuto dei diplomi che oggi vengono conferiti. Da parte mia mi limito a esprimere semplicemente un'impressione. C'è veramente una convergenza molto seria intorno al nostro istituto per promuovere questo genere di studi. L'ho sentito anche proprio oggi nella riunione del Collegio Docenti. Il tipo di preoccupazioni, di sollecitudini, di riflessioni e di programmi che insomma al vivo si vanno studiando veramente mi fanno risentire una forza che tende veramente a avanzare nell'intento che abbiamo davanti verso una vera e propria costruzione di un tipo accademico e scientifico di interesse per le scienze religiose, e credo questo sia ciò che più direttamente corrisponde al destino dell'istituto per cui fu inventato. Ringrazio le autorità convenute a condividere questa nostra soddisfazione. Scuso l'assenza di Monsignor Arcivescovo, che per dovere è presente alla conferenza dell'Episcopato Italiano a Roma e mi ha scritto una lettera per esprimere la sua adesione e la sua soddisfazione per il lavoro dell'Istituto. Poi a parte le adesioni gradite di Monsignor Bellomi, Vescovo di Trieste, del Commissario del Governo, l'Eccellenza Caltabiano, dei Senatori Giorgio Postal e Alberto Robol, dell'Onorevole Helga Thaler, Ausserhofer di Brunico, del Generale Purzacca, Comandante degli Artiglieri della Caserma Pistolato, del Professor Paolo Prodi e di Monsignor Giuseppe Colombo, Presidente della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale di Milano. Il firmatario dei diplomi, perché in realtà noi operiamo sotto l'egida dell'Istituto della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, che però ci lascia ampia libertà di azione e anzi riconosce ampiamente il lavoro, direi per riconoscimento competente, firma e segna il lavoro che noi stiamo svolgendo. In secondo luogo devo esprimere qui proprio la riconoscenza al professor Achille Ardigò, nuovo presidente dell'ITC, che abbiamo la gioia di salutare in mezzo a noi proprio in questa occasione. È felice, a mio avviso, l'occasione anche per esprimergli la nostra fiducia e la nostra attesa per il lavoro che egli ha accettato di svolgere a vantaggio degli istituti vero affiliati generati dall'Istituto Trentino di Cultura. Lo ringrazio in particolare per l'attenzione dimostrata per il nostro istituto, anche con suggerimenti preziosi che fin dal primo istante abbiamo sentito di poterci esprimere e confidare con assoluta libertà di spirito. E vedo come molto felice questa occasione di contatto in cui ho il piacere di presentare l'assemblea dei nostri alunni e dei nostri docenti, vero in un'occasione solenne, anche a lui che si trova familiarmente con noi per la prima volta. Ho poi il secondo motivo di riconoscenza per il fatto che con straordinaria disponibilità egli ha accettato l'idea o la preghiera che gli ho rivolto di assumere la fatica di questa che chiamavo prolusione, ma per ragioni varie è andata spostandosi piuttosto verso la fine dell'anno scolastico, vero? E quindi, insomma, non più che una prolusione diventa un fest for track, i fiori lo segnano, vero, una lezione festiva per l'occasione. Ecco, detto questo, passo la parola al direttore del corso, Danzani, che doverosamente dovrà aggiornare un po' di più su quello che è il contenuto dei diplomi e dell'atto di conferimento. Allora vorrei fare una brevissima cronistoria del nostro corso superiore di scienze religiose, che è nato nel 1986 per un felice confluire di varie circostanze. Da un lato il Concordato ha voluto offrire, il Concordato fra Santa Sede e Repubblica Italiana, ha voluto offrire una più solida preparazione agli insegnanti della religione cattolica. L'altra circostanza, a Trento esisteva già da 10 anni l'Istituto di Scienze Religiose, dedito ormai a una ricerca approfondita e dotato di una biblioteca molto ricca nell'ambito delle scienze religiose. Questi due fatti hanno favorito il sorgere di una convenzione unica in Italia fra l'Istituto Trentino di Cultura e l'Ordinario Diocesano, perché presso l'Istituto di Scienze Religiose venisse costituito un corso istituzionale superiore di scienze religiose. Nel primo articolo del suo regolamento, questo corso dice che è ad indirizzo pedagogico-didattico con specializzazione biblica e che ha il duplice scopo: primo, di promuovere la ricerca e lo studio nell'ambito delle scienze religiose e poi di cooperare alla formazione di persone idonee all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Questo corso può articolarsi su 3 o su 4 anni. Il curriculum triennale comporta 1000 ore di lezioni e consente di conseguire il diploma di scienze religiose, diploma valido e sufficiente per insegnare la religione a chi ha già una laurea. Il curriculum quadriennale, invece, ormai di grado accademico, ha complessive 1400 ore e consente di conseguire il magistero in scienze religiose richiesto per l'insegnamento della religione cattolica a chi ha come titolo di base la scuola media superiore. Come è appena stato detto, entrambi i titoli vengono rilasciati dalla Facoltà Teologica di Milano dell'Italia settentrionale. Le principali materie che qui vengono insegnate sono filosofia, studi biblici, istanze della teologia fondamentale, storia e sistematica dei dogmi, etica cristiana, storia della Chiesa universale, viene dato molto spazio alla storia della Chiesa locale, poi letteratura cristiana antica, sociologia e pedagogia della religione, storia delle religioni, storia e forme del culto cristiano, caratteristica dell'arte cristiana con particolare riferimento alla nostra arte locale. Gli studenti attualmente sono 156 così distribuiti. 66 frequentano il secondo anno, ogni anno solare noi teniamo 2 anni scolastici, rispettivamente il primo e il terzo, il secondo e il quarto. Nel secondo anno, quest'anno, ci sono 66 alunni, 51 nel quarto, 39 i fuori corso. I docenti impiegati sono più di 30. Per entrare nel cuore del nostro corso, per capirne il meccanismo, specialmente per quanto riguarda gli orari, i giorni di lezione, ma soprattutto per comprendere la ricchezza degli insegnamenti offerti, può servire da ottima guida l'annuario che annualmente viene curato dal segretario del corso, il professor Giovanni Menestrina. Ogni anno ne vengono stampati più di 700 esemplari. Come tutti sapete, oggi siamo qui per la consegna dei primi diplomi, conseguiti nell'anno accademico 90-91. 9 alunni hanno conseguito il diploma in scienze religiose, 15 il magistero in scienze religiose. Il totale, come direbbe la matematica, non dà 24, ma il totale dà 22, perché 2 alunni hanno conseguito in un anno il diploma in scienze religiose e l'anno successivo il magistero in scienze religiose. Vengono poi rilasciati anche 4 attestati interni a 4 alunni che hanno conseguito il magistero nello scorso mese di marzo e che per ovvie ragioni non possono aver ricevuto ancora il diploma ufficiale da parte della facoltà di Milano. Un'ultima parola sui poli di preferenza scelti dai candidati nell'elaborare le loro tesi di magistero o tesi di diploma. Il polo più preferito in ordine è stato quello degli studi biblici, poi l'etica cristiana, poi la pedagogia didattica, la storia della Chiesa locale, la filosofia, la storia delle religioni e la letteratura italiana religiosa. Ecco, prima di concludere, io mi permetto di rivolgere il ringraziamento a 2 persone. Prima di tutto, al primo presidente dell'Istituto Trentino di Cultura, il senatore Bruno Kessler. Senza la sua lungimiranza, questo corso non avrebbe visto la luce. E lui lo ha sempre accompagnato con il suo interessamento, con il suo incoraggiamento, con la sua attenzione. Fra le autorità ringrazio anche il rettore dell'università, con la quale cerchiamo di collaborare sempre maggiormente. Alcuni docenti dell'università sono anche docenti presso il nostro corso, ne nomino uno solo, il preside professor Beschin. Quindi ringrazio il rettore dell'università, il professor Zuelli, per la sua partecipazione a questa nostra prima consegna dei diplomi. Grazie. A questo punto avremmo previsto un intervento della rappresentante degli studenti, che in questa occasione sarà la signorina Carla Dell'Antonio. Qualche giorno fa Donzani mi ha invitata in quanto ex rappresentante degli studenti che hanno concluso il corso superiore di scienze religiose ad esprimere qualche pensiero di valutazione riguardo al corso. E ho ritenuto allora importante e necessario confrontarmi con i colleghi, almeno alcuni, che hanno frequentato il corso. Abbiamo quindi cercato di fissare insieme qualche pensiero. Come primo elemento va rilevata la novità e l'importanza di un corso di scienze religiose aperto a tutti, ai laici in particolare. Ciò rende possibile finalmente la dimensione laicale della teologia, non più prerogativa di pochi, privilegio di sacerdoti e religiosi, ma finalmente, per usare le parole di Don Luigi Sartori, proprio in occasione del discorso di apertura al corso, ancora nel 1986, teologia come vero bene di tutti, che attinge da tutti, è attenta a ciò che è di tutti ed è orientata a servire la crescita diretta di tutti. La teologia va collocata dentro l'umano, dentro la vita, deve farsi profezia per il domani, ispirare scelte concrete per la testimonianza comprensibile della propria fede. La conoscenza acquisita negli studi, i molti stimoli che ciascuno di noi ha potuto e può cogliere nelle tematiche affrontate, oltre ad essere un bene da trasmettere ad altri, è stata prima di tutto una ricchezza per ciascuno di noi. Lo studio dei testi biblici, le scritture dei padri, il soffermarsi a riflettere sulla parola di Dio, il meditare su quelle pagine, hanno costituito per ognuno di noi un'occasione di crescita personale e di maturazione nella fede. La preparazione raggiunta attraverso l'iter di studi del corso ci permette di entrare nel mondo della scuola con maggior consapevolezza del nostro ruolo di insegnanti ed educatori di fronte agli alunni, alle famiglie e nei confronti dei colleghi delle altre discipline. Molti di noi, inoltre, sono impegnati in qualità di catechisti, animatori, collaboratori pastorali nelle proprie parrocchie. La preparazione acquisita nel corso di studi, quindi, ha di certo contribuito a dare maggior qualificazione anche in questo impegno. Per quanto riguarda il come abbiamo vissuto questa esperienza di studio per 4 anni, possiamo dire che si è creato un clima positivo di interesse, di collaborazione, di confronto e di amicizia che tuttora anima i rapporti fra alcuni di noi. Ritengo che un'espressione di questo clima positivo sia stata la disponibilità degli studenti a collaborare nell'assumersi l'impegno di tradurre in un lavoro di sbobinatura e di dispense il contenuto delle lezioni. Non sono mancati certo momenti di difficoltà dovuti anche alla novità dell'esperienza che ci ha visti pionieri. Vorremmo ricordare il lavoro qualificato dei docenti che ci hanno accompagnato in questo corso di studi. Vorremmo ringraziarli per essere riusciti a trasmetterci calore e passione nello studio della parola di Dio, per aver saputo rendere veri, concretizzandoli nell'oggi, i temi della teologia, per la capacità avuta di dare concretezza e semplicità alle tematiche della morale, per averci offerto nuovi orizzonti nella prospettiva dell'apertura al linguaggio e alla cultura del nostro tempo e nella prospettiva del dialogo con la storia e con le altre fedi. Come ultimo punto, un auspicio: che grazie a questo periodo di studio e di impegno riusciamo a mantenere vivo l'interesse per l'approfondimento, la ricerca e la novità secondo quanto ci suggerisce la realtà storica dinamica nella quale viviamo. Ulteriori devono sicuramente essere le opportunità e gli stimoli per una maggior crescita nell'ambito del sapere e per un costante aggiornamento dei nostri studi. Desidero concludere sottolineando un pensiero di Albert Schweitzer che mi auguro possa accompagnare il nostro cammino. Quello che tu puoi fare è solo una goccia nell'oceano, ma è ciò che dà significato alla tua vita. Grazie. Ecco, penso sarà gradito anche un intervento di uno dei docenti. È stato affidato al professor Don Giampiero Boff della diocesi di Savona, fedelissimo malgrado la distanza e preziosissimo perché ha rappresentato e rappresenta tuttora tra noi in un modo non convenzionale la teologia sistematica. A lei la parola, Don Giampiero. La prospettiva dalla quale io esprimo la mia impressione, questo è il tema che mi è stata affidata, del corso, è segnata proprio da questa distanza dalla quale provengo, e ancora è segnata dal fatto che per varie ragioni ho esperienza lungo l'Italia, da Trento a Palermo almeno, di altri istituti consimili. Ebbene, devo dire subito che proprio questa esperienza e questo distacco che io posso conservare, nonostante questa integrazione abbastanza profonda nel corso, mi inducono, mi convincono a dichiarare che questo corso è davvero qualcosa di unico. ma non soltanto per la struttura formale. La unicità, io credo, dipenda anzitutto dalla sua collocazione in un contesto culturale, abbastanza tipico, abbastanza caratteristico, quello del Trentino, per quanto io ho potuto coglierlo, in un determinato e ricco, io credo, o sento, contesto ecclesiale, e poi anche in una situazione che dal punto di vista civile, istituzionale e politico, ha delle caratteristiche quanto mai interessanti. Per sensibilità come posso essere la mia, e forse qualche volta si ha l'impressione che si conservi ancora qualche cosa di un passato che altrove si è perduto. Io credo che una tensione un pochino più profonda possa intravedere addirittura in questa struttura un qualche cosa che il futuro potrebbe acquisire, utilmente acquisire anche per altre regioni italiane. E per questo io credo che anche l'iniziativa, questa istituzione che oggi stiamo un po' celebrando, possa esercitare una funzione davvero straordinaria. Una funzione indubbiamente, direi, nell'ambito della cultura teologica di Trento e del Trentino, nella quale l'istituto esercita sicuramente una funzione di stimolo, di preparazione e di promessa soprattutto. Io credo che la fisionomia che l'istituto, integrato come anche nell'Istituto di Scienze Religiose, possa ulteriormente affermare sia tale da rappresentare un arricchimento straordinario per la Chiesa trentina e credo per la cultura e tutto il mondo trentino. E qui vorrei cessare dalle celebrazioni per dire quello che io posso indicare come, non critica, o se volete critica, ma soprattutto progetto. Ecco, io vedo in questo istituto, in questa Trento, una ricchezza straordinaria di mezzi. Vedo molto interesse, vedo molto entusiasmo. Qualche volta si ha l'impressione che un piccolo sforzo in più, ben illuminato, un pochino di, forse di maggiore generosità anche dei singoli, ecco, possa portare questi strumenti e queste energie a dei risultati davvero inaspettati e straordinari. Io credo che questo istituto abbia le possibilità di rappresentare, non soltanto a Trento, ma in Italia, un qualche cosa che forse istituti universitari teologici non sono in grado di rappresentare. E per questo quello che è la mia ansia, direi, la mia partecipazione più cordiale, più profonda, è perché questa possibilità davvero giunga in atto. In quale direzione? Non voglio dilungarmi, ma io credo che anzitutto qui ci sia una possibilità straordinaria. E quando dico possibilità, dico già una realtà presente, molto ulteriormente sviluppabile proprio per le virtualità che presenta, a livello del confronto tra la teologia e la cultura. Io non conosco in Italia un luogo dove questo sia altrettanto possibile come lo è in Trento. Dunque dico, trentini cari, abbiamo una grande responsabilità, ecco, proprio per questo. Io credo che sia un'altra possibilità aperta, quella di una integrazione più profonda, più seria, più articolata, più feconda tra quello che è la Chiesa e la società italiana. Al di fuori di tutti quegli spiriti qualche volta ancora un po' ristretti, un po' angusti. Invece veramente in una direzione di apertura, di comprensione, di collaborazione profonda, dove non manchi il confronto anche critico, ma proprio perché critico, perché seriamente critico, stimolante e ricco anche questo di grandi possibilità. E poi c'è un'altra dimensione che io ritengo sommamente importante. Ci stiamo aprendo all'Europa. Io vi sfiderei, cari trentini, a trovare in Italia un altro luogo, un'altra istituzione che possa, nella sua tipicità, esercitare una funzione di mediazione come quella che Trento, l'Istituto Trentino di Scienze Religiose, il nostro corso, può esplicare. Ebbene, queste sono possibilità. Possibilità reali, non soltanto vagheggiamenti, e per questo io credo siano prima di tutto per noi oggi, insieme al motivo di un grande compiacimento, soprattutto un appello alla responsabilità. Oltre a questo c'è un'altra cosa qui a Trento, ed è proprio la convergenza abbastanza numerosa, multiforme di insegnanti che possono portare da altrove qui la propria esperienza. Ecco, se tutto questo potesse essere adeguatamente valorizzato, noi oggi forse potremmo semplicemente dire, beh, riconosciamo un cammino che oggi ci si presenta, ma abbiamo le energie per affrontarlo. Allora sarebbe davvero una grande prolusione, grande per il nostro istituto, grande per Trento, ma io credo grande per la Chiesa e per la società italiana. Grazie. Grazie Don Bo di questo apprezzamento. E io pensavo solo una cosa, la crescita in questa direzione dovrà essere coltivata e favorita proprio in questo punto d'incontro che è il nostro istituto. Questo lo dico soprattutto ai giovani perché ritengo che dall'istituto non dovranno uscire soltanto, direi, delle forze professionali, è vero, perfette per l'insegnamento della religione nelle scuole, ma dobbiamo fare di tutto perché cresca anche veramente qualche studioso autentico, qualche sforzo più qualificato, vero, per esprimersi e per portare avanti, far crescere in avvenire, anche dopo di noi, speriamo, vero, per tempo lungo questa iniziativa. Adesso sarebbe, cioè siamo al momento culminante della manifestazione e per sé essa aspetta al Presidente, se non che il Presidente mi ha espressamente officiato di pregare di passare all'assessore Tarcisio Grandi, vero, il compito dell'assegnazione dei diplomi. Don Zani le starà al fianco, assessore, e quindi a voi. È un segno di discontinuità. Dunque incominciamo con la distribuzione dei diplomi in scienze religiose. Allora, si dice il nome? Sì. Prendo la cartella. Bene, allora invitiamo il professor Morandi Ruggero, al quale consegniamo ben volentieri la pergamena. Il diploma. La professoressa Pontalti Laura. Professoressa Dalmeri Daniela. Il professor Cagol Stefano. Professoressa Pedrini Ilaria. La professoressa professoressa Pontara Maria Teresa, gli facciamo l'applauso anche se non è presente. La professoressa Paganotto Gigliola. Vengono consegnati adesso i diplomi di Magistero in Scienze Religiose. Bene, la professoressa Fracca Livia, che ottiene due diplomi. Mosele Gabriella, che pure è assente, e quindi un applauso anche se non è presente. La professoressa Viero Diella Lucia. Professoressa Frasnelli Mariangela. Anche per il prossimo, il professor Claudio Bright. La professoressa Dell'Antonio Carla. Professoressa Nadia Zomer. Il professor Pietro Beghini. Professoressa Grazia Donati. Il professor Roberto Colla. Professoressa Maria Pia Bonato. La professoressa Maria Rocca, un applauso anche se non è presente. La professoressa Manuela Tessarotto. Professoressa Maria Wiesentainer, che pure mi dicono essere assente. E anche la professoressa Luisa Bortolotti. Ecco, ci sono ancora i quattro attestati, dei quattro che hanno raggiunto il Magistero in Scienze Religiose lo scorso mese di marzo. È un attestato interno, valido a tutti gli effetti. Il diploma ufficiale di Milano penso che arriverà, con i tempi che corrono, l'anno prossimo. Allora, Laura Tonello. Un Maria Battisti. Carmine Amendola. E Angelo Valbusa. Penso che non sia stato ritualità vuota, perché un applauso come questo è un incoraggiamento anche per gli altri. Vivan sequentes. Grazie, Assessore, di essere stato con noi.